Una buona serata, 451 frammenti sonori per chi ascolta invece in altri orari non serali tramite blog, 451 frammenti sonori no blogs, questo scioglilingue insomma me lo porto, ce lo portiamo dietro da un po' di tempo questa parte, bene così, anche perché appunto c'è la possibilità di avere un altro tipo di ascolto perlomeno non significativo ma però in termini di ascolto appunto personalizzato, ecco, a questo punto mi verrebbe da dire, ma tant'è che sono in diretta. Max Macchi appunto vi saluta in quella di Città Fujiko, un'altra trasmissione veramente di sti tempi, insomma andiamo un po' navighiamo a vista, ecco, e quindi siamo qua in diretta, ben contento di essere appunto qua con voi direttamente. E 451 resilienza, probabilmente non è casuale, anzi senza che mi faccia insomma l'autoretorica, non è assolutamente casuale visto che è mia la titolazione. Resilienza morbosa, però resilienza morbosa, perché dietro il discorso della resilienza che guarda caso per tanti aspetti così per tanto per essere maliziosi, mica per nient'altro, sono io malizioso, prendo un po' il posto di resistenza, visto che poi la resilienza si può unire di più a un discorso individuale, addirittura tecnico, tecnologico, nasce su quello, quindi che poi venga spostato sul campo umano quando in termini appunto magari più collettivi un'idea appunto di resistenza, tra l'altro anche una pratica di resistenza e pratiche di resistenza ne esistono, e come, però magari appunto i rimandi possono essere altre situazioni magari appunto aperte a discorsi collettivi, e allora parliamo di resilienza. A questo punto buttiamola sulla resilienza, ma facciamola, come dire, ammalata, già lo è di fatto, già in partenza nasce morbosa, dalla morbosità insomma diffusa in termini ideologici rispetto appunto allo stesso concetto di resilienza, che poi viene declinato in varie maniere. Se nasce, come accennavo prima, dalle macchine, dal sistema che pur avendo impedimenti tecnici comunque riesce ancora a funzionare, beh, probabilmente proprio questo è il discorso, far funzionare ancora le cose, far funzionare le cose e le persone per come hanno e come si vuole magari far funzionare. Il rapporto appunto è verticale, anche qua si perde quel discorso appunto più orizzontale e quindi collettivo. Resilienza morbosa, perché vogliamo in un certo qual modo portare all'errore, un po' come la scorsa volta la Wrong Linna Nanna di Bifo, Gillespie, la Lance e Bertoni. Sì, la Linna Nanna appunto sbagliata, è una resilienza che forse sbagliando, portandola insomma anche questa dall'altra parte, svuotandola e dandole probabilmente appunto quel significato che invece nella parola resistenza, perlomeno da queste parti, ritroviamo un senso, anche un senso compiuto e anche un senso prospettico rispetto a situazioni che insomma stiamo vivendo quotidianamente, e appunto anche questo è il navigare a vista, e rispetto anche a proprio un guado da superare, da vincere in termini resistenziali, quindi in termini anche proprio di portare a compimento, far finire, ecco, in questo senso. Quindi probabilmente il morbo ci può portare anche appunto al termine della cosa per quanto riguarda la resilienza e quello che si porta dietro ideologicamente il discorso resiliente. Per illustrarvi, come dire, come si sarebbe detto una volta, musicalmente quello che sto cercando di dire, Iniziamo immediatamente con delle forme che dietro la resilienza in realtà nascondono la resistenza al linguaggio massificato, la resilienza e resistenza a quello che è un suono, un modo di vivere la performance codificato attraverso i canoni della non soltanto della commercialità, ma anche proprio dell'essere così chiaramente esplicito in termini insomma sia merceologici che in termini linguistici generali. Orz, insieme a Patrizio Oliva, che tra l'altro di queste parti, proprio in quel di Bologna, si muove tanto Patrizio Oliva, o si muoveva, insomma, non ho qualche tempo fa, insomma, l'ho vista personalmente insieme, tra l'altro, a Balli, in una bella performance, qua ci vuole. E poi Luca B. Cremo, che portano una sorta di sconcerto, se non proprio sconcerto, di Capodanno. Però il Capodanno è inteso come capo, quindi come qualcosa che sta a capo di qualcos'altro, e l'anno non è di apostrofo anno, quindi non si tratta di annualità, ma si tratta proprio di danni, e quindi di danno. Sconcerto di Capodanno, quindi, per iniziare questa 451 resilienza morbosa, che sia appunto questa. Buonasera, gentili radioascoltatrici e radioascoltatori. Catarsi inutili nel nulla tutto. Una persona ama perpetuare un avido settore di mente, appassisce insanguinando Dio con una mela al napalm. Il bisogno del nemico addolce l'avidità del sesso, una doccia, manichei fondamentalisti, esplosioni, insetti morti, squarci di menti e proteine di idee, irradiano qualcosa poco più di niente, un muro d'energia che sta vicino. Bambino ridi, poi piangi, disperato. Poco dopo è succo, e non è nirvana, no, è succo di entropia e termodinamica. Udino cristallizzato, metallo fuso. Hiroshima, 6 agosto 1945. Disintegrati, disgregati, umiliati, ma radioattivati, ora sprizzano di vita i loro atomi, prima inconsci, impiastrarsi in stomachevoli aminoacidi, un atomo ora inconsci, l'estasi dell'amplesso, ora e non più, ma di nuovo, ora. Che un occhio è un tre. Prego qualunque, qualsiasi Big Bang, tutto sterno, tortura, Big Crunch. Credo in un solo Dio pulsante. Voglio morire da embrione informe, fuso, bruciato lentamente. Voglio non essere stato mai nessuno. microscopica immensità, il granello di vita, il codice immateriale. Dio è un atomo e io che guardavo le stelle. Nel freddo universo tremo e lacrimo, Homo sapiens in estinzione. Differenza tra una lacrima e l'atroce sofferenza. C'è un filo sottile che lega il fruscio del cervello con la luce interiore. C'è una connessione sottesa tra la rabbia e il morso amoroso. Perché il sorriso di un bambino è così distante dalla morte violenta, perché è meglio morire che non nascere, perché la poesia è una goccia di sperma lanciata nello spazio interplanetario. Microscopica immensità, il granello di vita, il codice immateriale. Dio è un atomo e io che guardavo le stelle. Sono volante nel freddo universo, tremo e lacrimo, Homo sapiens in estinzione. L'Homo sapiens in estinzione di ODRZ insieme a Patrizia Oliva, conosciuta anche come Madame P, e Luca Bicremo, che appunto ci portano distanti rispetto a ad un ascolto anche teatralizzato, dato appunto dall'utilizzo della parola, con tutto quel portato sia industrial wave che si portano dietro ODRZ, ma anche quella performance legata tanto a un modo di concepire, anche se vogliamo cabarettistico, di certo noise, soprattutto noise nato non soltanto negli Stati Uniti, anche se Wolf Eyes and Company insomma hanno teatralizzato appunto anche in questo senso il noise. ODRZ hanno poi i collegamenti con quello che è il portato insomma anche decisamente consistente delle musiche industrial appunto italiane, che hanno avuto personaggi assolutamente eccezionali come Vittore Baroni, che tra l'altro ascolteremo adesso con uno dei punti di diamante di quello che era l'industria internazionale Nocturnal Emission, una performance appunto un breve estratto dove Baroni appunto lavora e sonorizza ulteriormente le cacofonie di Nocturnal Emission, che poi si sviluppano anche in termini appunto performativi, e l'oralità in questo senso aiuta, e qua passa veramente tanta acqua sotto i ponti, sia per utilizzo del noise, sia per appunto la presenza scenica, e anche per quanto riguarda proprio il discorso di suono resistenziale, di pratica resistenziale rispetto appunto a una cultura dominante, un'ideologia insomma che si fa sempre più subdola, per parlando insomma degli anni Ottanta, quando appunto soprattutto operavano non che soprattutto Baroni insomma è piuttosto attivo anche adesso, però insomma, durante potremmo dire la golden age del suono industriale, e soprattutto i primi anni Ottanta, quando appunto la resistenza passava anche da forma di linguaggio che si opponevano appunto in maniera subdola, utilizzando la stessa postmodernità in termini appunto di alterità, di potremmo dire veramente resilienza morbosa, qualche cosa che sfrutta per noi vogliamo insomma considerarli come dire a fin di bene, ma senza romanticismi, anche perché insomma viene da qua una certa simpatia rispetto a forme esistenziali, rispetto anche a certi certi quasi forme di deturnamento che viene fatto rispetto appunto a quello che era esistenziale e che è diventato per molti aspetti anche in maniera altrettanto suda, appunto resilienziale e resiliente, insomma, poi lì mettiamoci d'accordo, l'importante è capire la possibilità che sembra appunto una possibilità inattuale e proprio per quello interessante di portare a una sorta di appunto di saturazione di termine e quindi anche di deturnare in questa maniera la resilienza, che non è appunto più resistenza, magari appunto facendo diventare resistenza anche qualcos'altro. È un po' paradossale, ma per tanti versi appunto è molto anche semplice rispetto a qualcosa che termina e che appunto dà spazio a qualcosa che inizia, che evidentemente deve a questo punto veramente essere diverso. Look inside, the plague advances on all fronts. It's just a different pleasure to die slowly in a white clearing smoke. Scratch, scratch, scratch the blob. A newly born rabbit, fisted to mush monsters, need to be nourished. In the dark, drop truth is rhetoric. Madam Madness is precious with rainbow riots. Oh, all my Puerto Ricans get so dizzy in the summer. Please scratch, can't rub out the dirt. Scratch, scratch, scratch the blob. Do the blister bump. Let's sing a nice song, easy to remember. No chemical substance neutralizes the lack of insect rays. A handful of blobby pacifism erasing 33 revolutions laxative. Fiddling with a reddish magnetic excrescence. Scratch, scratch, scratch the blob. Slamming one against the other, lazily faint in digital lobster chant. Experts agree, the world is fucked telepathy. No drops of laughter in hurry, hurry, orgy target. Violence is beautiful in my open corpse. Scratch, scratch, scratch the blob. Yeah. Tornare in Mission insieme a Vittore Baroni, Baroni, Daniele Ciullini, System Hardware Abnormal, quanto anche Abnormal, e Alphaville, che non sono insomma i tremendi di Big in Japan e di altre insomma faccende. È così, più dance techno pop, ma italiani, Luca Maier che così distillava di veramente no sense e di decostruzione con tanto appunto di morbo quel suono wave che andava tanto da possibilità, insomma, residenziane, con queste batterie, ma non solo, non wave giocattolo, che però appunto viene utilizzato male, viene utilizzato in come gioco anche tremendista, come possibilità, insomma, alterata della decostruzione giocosa, appunto, che faceva Luca Maier con il suo progetto Alphaville System Hardware Abnormal, conosciuto anche come Demented Burro Cacao, oltre che con vari nomi. Lui è Stefano Di Trapani, che tra l'altro abbiamo avuto modo anche di sentire nella scorsa trasmissione. E con una sorta di così di follia, non soltanto legata a una sorta di power electronics, però utilizzato anche qua quasi in una chiave grottesca, ecco, potremmo dire, non che il suono di White House e altri, quell'industria portato verso la power electronics, non abbia tanto di grottesco, ma qua addirittura c'era proprio l'errore anche della frequenza, che porta appunto il suono ad azzerarsi e poi appunto a ripartire, una sorta di sfinimento anche qua, così come altre puntate, con altri soprannomi, portate sempre comunque a una sorta appunto di saturazione e di quasi momento di quasi sì di quasi non più lettura, ecco, e quindi di sorta di demenza, ecco, appunto, forse anche da qua il non soltanto il burro cacao, già insomma ridicolo per sé, ma il burro cacao demented burro cacao, quindi come dire, ancora di più accanirsi su quello che è già di fatto, insomma, storto, già di fatto, insomma, morboso. Daniele Ciullini, che viene come Vittore Baroni, Vittore anzi, da quella che la mail art, da quella che era poi una pratica legata a molta industrial music proprio nei primissimi periodi, se pensiamo, insomma, che anche Monte Cazazza, che è quello che se ne uscì con appunto con lo slogan Industrial Music for Industrial People, quindi quello che ha inventato, insomma, di fatto l'industrial, non soltanto come concetto, ma anche per tanti versi, insieme a Throbbing Gristle e varia genia, insomma, di Sheffield, è quello che è stato il suono e la pratica, appunto, anche legata all'industrial, la performance poi industrial, non soltanto quindi quello che è appunto un discorso legato all'ML art, alla performance nel senso stretto concertistico, ma proprio come sorta di interazione, quando appunto si voleva interagire, ma proprio per veramente non scendere dal palco, ma proprio per demolirlo, e quando mai, insomma, ci sia stato, insomma, una forma anche di palco dentro le performance e concerto di Monte Cazazza, Throbbing Gristle e appunto guastatori vari, anche con un'idea che poi troviamo e ritroviamo dopo anche un bel po' di anni dentro Gusto Forte, veramente in etichetta stabili, seppur per tanti versi, per frequentazioni, brutte frequentazioni potremmo dire, vicini appunto all'industria, vagamente, insomma, etichettati come tali, ma dentro troverete veramente tantissime cose, addirittura gezzate, schizzi di no wave, momenti deliranti, nel senso appunto più più creativo e anche ricreativo del discorso, se non anche momenti invece proprio di gusto forte, ecco, nel vero senso della parola. E tra l'altro, insomma, questo 451 frammenti sonori prende proprio il titolo da Divino Amore con Resilienza Morbosa, e quindi direttamente, insomma, da Gusto Forte, che ovviamente, insomma, ci ispirano e anche più di ispirarci, ci guidano anche in una sorta, appunto, di resilienza morbosa, come un po' l'avevamo pensata. Gusto Forte, appunto, Divino Amore con Resilienza Morbosa, e poi Steel Walk, anche per fare una sorta di ponte tra le vecchie sperimentazioni, vecchie tra virgolettissime, di Gusto Forte, visto che ancora sono piuttosto misconosciuti, e, insomma, in corso di ristampa, ecco, da pochi mesi ristampate anche le primissime cose, ma siamo solo, spero, all'inizio, anche perché molte cose non furono proprio neanche stampate all'epoca degli anni Ottanta, insomma, dalla Golden Age, appunto, industria di cui accennavo prima. E invece Divino Amore con Resilienza Morbosa arriviamo più o meno ai nostri giorni, con, appunto, il ritorno di Gusto Forte. pezzo forte, Francesco Verdinelli, Roberto Giannotti, Silvia Brunelli e Stefano Galderisi. Beh, per effettivamente qualcosa che ha a che fare molto con qualcosa che è forte, e forte ma anche proprio in termini appunto di composizione, di materiale che resiste a questo punto, e come se resiste, e non è soltanto appunto semplicemente ideologicamente resiliente, e come resiste materiale di fondo, bel progetto, una ventina d'anni da parte di Sergio Camedda e Giampaolo Campus, tra campionamenti e zither eccetera, e appunto luoghi sonori piuttosto ameni. Io vi rimando al prossimo 451 frammenti sonori e vi lascio con, per qualche minuto, con la resilienza appunto di fondo. Ciao, alla prossima, e inevitabilmente fate i bravi.